sul 10, ecco sul 10. Ma attenzione sul canale 10. Sì, sul 10. Oh, il bombolo, buonasera. Sì, buonasera. E allora? Cercando qualcuno, a vedere se c'era qualcuno, ma mi sa che anche oggi la giornata è fiacca. La gaffa. E allora, come va? Tutto bene? Ma la gente sta entrando qua. Oh, sono il giorno che chiamo pure. Ci diamo qualche colpo di telefono con qualcuno per poi attaccarci e passare un'oretta, mezz'oretta, quello che è al baracchino, però non... l'affluenza è diminuita abbastanza, ecco. Ma ci tentiamo ugualmente. Che cazzo, io mi... qualche volta accendo, adesso se c'ho da fare cosa faccio cosa. Se da fare al baracchino, fare al baracchino, cioè... troppo... Mi sono stancato un po'. Perché... per motivi, hai capito? Quello sì, no, ma vedo che, diciamo, questo abbandono, diciamo, è abbastanza contagioso. Vabbè. Caffa. È abbastanza contagioso. Io non c'ho l'ansia a fare di queste cose. Io ho le mie ragioni anche, perché... Io ti ho provato, mi hanno voluto sentire, allora pure io cosa devo fare? Adesso quando ho tempo, quando ho tempo mi dedico ad altro. Ho fatto tutto, e la gente lo sa benissimo, lo sa, però ultimamente sembra che... io non voglio offendere nessuno, ma sembra che sia paesare molto minore. Ma quello già è vero, e a volte sì, chiami, per esempio senti qualcuno che fischia, chiami, continua a rifischiare, richiami, continua a fischiare, vuol dire che non vogliono parlare, pasciscia. Ma non voglio rifischiare, facciamo rifischiare, tutto lì. Io prendo, cambio canale, intanto provami. Su 15 qualche chiacchierata me l'ho fatta sul canale 15, che sono due di Alghero, uno che aveva un po' senza modulare ha ripreso, più un altro un pochettino più piccolo, in condizioni critiche perché deve sistemare l'antenna, ma dice che dovrebbe essere a breve. Per sistemarla vedo che loro già si danno appuntamento, si fanno una chiacchierata e passa il tempo ugualmente così, e devi cercare un po' di trovare l'ora giusta, sperando che ci sia qualcuno. Tutto lì a tentativi devi andare adesso. No, a volte ora sono anche tutto il giorno acceso, ogni tanto cambio canale, mi avvicino, cambio canale, però è sempre solamente QRM e basta, ed è qualche propagazione, ma niente di più. Se fosse stata almeno lingua italiana allora mi sarei divertito, ma la maggior parte sono tutti stranieri. Caffa. Sì, va bene. Adesso stasera mi è venuta voglia di accendere, l'ho acceso. Quando ciò devo uscire, devo fare cosa esco. Molte volte rinunciavo, anche ad uscirmene rinunciavo per cercare anche di... Non voglio fare nelle colpe, né niente, per carità, per me è sempre stata una cosa bella, che mi è sempre piaciuta, e così che non voglio fare... Non voglio fare delle colpe a nessuno, però cioè, mi hanno urtato, cioè, per dire le parole povere, mi hanno urtato i coglioni certe cose, che non si possono sentire, dai, cioè, siamo persone grandi, siamo, non siamo dei bambini, hai capito? Cioè, sono più giovane di molte persone che ci stanno qui, ma cazzo, cioè, no, ogni volta ne sentivo una, ma poi senza contare chi tu la perracchia, quello con la, cioè, quello potrà anche lasciar perdere, non me ne appunti nulla, cazzo, quello là come questioni, quello con altre questioni, quello... Cazzo, cioè, alla fine io dico le cose giuste come sono. alla fine, cioè, uno può cambiare un pochettino carattere. Cazzo, io ci ho provato in tutti i modi, però nei loghi ho dovuto cambiare carattere un po'. Ti capisco, capito, giustamente ognuno ha fatto la sua parte, compreso io, però, ma porca miseria, vabbè, sbagliando si impara, fanculo, ti fai prendere un po' delle situazioni e poi ti accorgi che sei sbagliato tutto lì, ma non per quello non può ritornare a parlare una cosa e l'altra, ecco, tutto lì, tanto per tenere viva un po' la situazione, ecco. E adesso quando è stato pochi giorni fa, adesso mi ricordo se non... con Gerard Piori stavo parlando, così un pochettino anche di questo discorso, e poi è entrato lì Claudio che fa, da quando non ci sono io, diciamo, non sto più parlando perché lui sta facendo altri esperimenti in altre frequenze, non sta entrando più nessuno, ecco, diciamo, lui almeno un pochettino la cosa la attirava, ecco, già è vero questo, bisogna ammetterlo, se non c'è, sembra che quando non c'è lui non si attacca nessuno, ecco, tutto lì. Anche Claudio è lo stesso un bel po' di tempo che non c'era meta qua, in altre frequenze, l'ha detto, sto facendo degli esperimenti, dunque per il momento mollo un po' e provo a fare altro, ecco, tutto lì. E vabbè, poi giustamente ha ragione, ma tocca anche a voi, dai, chi c'è, chi ha giustamente il baracchino, hanno altre frequenze, tocca anche a voi lo stesso un po' invogliare la situazione, ma è come le invogli, entri, ma non becchia nessuno, cosa fai altro? Tutto lì? Ciamba, ma io ti rispondo a te, di quanto ti tenessi io, ma da quanto ti tengo io a questa cosa? Cioè, io sono anni e anni modulato, cioè, sono un bel po' di tempo modulato, mi danno scherzato, ma un bel però, perché? Perché mi è sempre piaciuto, io ci tengo proprio, io sono fatto così, ci tengo alle cose, però quando stanno un cazzo chiuso, è così, chi te culasse, ma poi torna, cioè, alla fine... penso di non mollarlo, penso. Però adesso se c'ho da fare cosa, vado a fare cosa. Non sono più come prima. Non so se mi spiego. Se non è che mi stavo anche rinchiudendo qua, perché volevo cercare di fare qualcosa, ma non c'è cazzo, ma non c'è rimedio. Cazzo, cosa cazzo devo fare? Ma adesso sì, io entro, però quando ne ho voglia, non quando ne ho voglia, no, perché insomma non è che fai da che ti fai le cose, quando fai le cose tue, cosa c'è anche il tempo. Entro quando non c'ho da fare altro, capisci? Perché così, io ho fatto di tutto, purtroppo, le cose non sono andate per il meglio, mi dispiace anche, perché io ci tengo molto, ci tengo un bel però visto che non c'è stata neanche collaborazione, allora cosa devo fare? E alla fine cosa fai? Mollare non conviene, perché la passione non molla. Purtroppo uno deve avere un po' di pazienza e sperare alla fine che si aprono dei giorni, che qualcuno li viene a voi, li attacchi e ci si fa una chiacchierata. Oppure sperare che la propagazione sia propizia, cosa ne so, e riesci a fare dei collegamenti, giustamente, lingua italiana, e fai una chiacchierata così, giustamente, lo utilizzi, diciamo, questo passatempo, tutto lì, e a volte lo lascia accendere anche tutto il giorno, non è un problema. Se qualcuno, per esempio, la mattina sul canale 5, meno male che i camionisti una chiacchierata se la fanno, sia di lavoro, di altre cose quotidiane se la fanno, e mi ascolto a loro, l'unico è sul canale 5 abbastanza impegnato la mattina. Poi sino alle 2, dalle 2 in poi rimane abbastanza silenzioso, dunque cerco in altri canali, oppure in banda laterale, bene o male, già è sempre acceso, mi piace lo stesso sentirlo acceso, però è bello di più giustamente quando ci parli, e bisogna, come si dice, trovare la giornata giusta e il momento giusto, tutto lì, altro adesso per il momento altro non si può fare. Ciao. Vabbè, non è quello il problema, ma adesso che insomma c'è un pochettino più di freddo e cose, sicuramente lo userò un pochettino di più, capito? Sì, e beh, giustamente, quello che speravo anch'io, quella scusa, tante televisioni sempre solite cose, dunque prima o poi non mi viene la voglia di nuovo di riattaccare. Devo dire infernale, certo, sta piovendo, il maltempo ti impedisce di uscire, ciccia, beh, oggi mi fa col baracchino, là, tutto lì. Speriamo che funzioni almeno così, con la scusa del tempo, riprenda un po' l'attività CP, tutto lì. No, vabbè, no, non c'è problema, non è che, capito, come problema, però, insomma, mi sono un pochettino, sono un pochettino buriato, capito, adesso già mi è passato un po', ma comunque già rientro, c'è problema, cioè le devo dire, dai, queste cose le devo dire perché mi è sembrato anche ovvio di farlo capire che, insomma, cioè, siamo un pochettino le mie, come si può dire, le palle girate, dai. Io ho capito, Aussi si dice così, morigare San Media, poca più fiago, no? Non so se l'hai capito. Diciamo, mischiare la cacca, toglie più odore, dunque alla fine non conviene non toccarla neanche, la lasci lì seccare e finisce lì il discorso. Sì, io ho capito cosa vuoi dire. Chi se ne frega, fa culo, alla fine. Si prendono le cose come vengono, tutto lì, niente di particolare. Comunque, sa che c'era anche tu il numero di telefono, un giorno cosa nessuno, non sentia nessuno, sa che verso quest'ora, un pochettino più tardi, una chiacchierata, per uno squillo, so che sei tu, e vuol dire che ti viene attaccato al baracchino, accendo, senza problemi, ci facciamo due chiacchiere, ecco. L'unica soluzione per il momento è quella. No, non c'è problema. Ma mi ricordo che io il santo non capisco cosa mi hai detto. Hai capito? Lo capisco molto bene. Oramai ho imparato. E vabbè. E il lavoro come va? Tutto a posto? Anche oggi già l'hai fatta la tua parte, sì. Ah, oggi è appena movimentata. Però se non fa freddo la tuffa non ne posso attaccare, capito? Puoi attaccare la stufa, così hai detto. Detto, se non fa freddo non posso attaccarne alle stufe. Ah, è quello già è vero. Allora, dunque, arrivato a un certo punto l'inverno dovrebbe essere più lavorativo, o sbaglio? Non credo, ya. Soprattutto quando c'è molti studenti che ti ordinano la bombola per la stufa, alla grande che ne consumano. Soprattutto quest'anno, questi due, anche 4 anni, vabbè, soprattutto quest'anno diciamo che è il 4º anno, che è una volta di spagnoli che ci sono a Sassari. Buono, dai, è una cosa positiva alla fine. Diciamo che l'estate dovrebbe essere più tranquilla nel tuo ambito del lavoro, più rilassata, dunque l'inverno riprendi, fai una mezza vacanza lavoro, giustamente sempre lavorando, là alla fine l'estate. Lavori sì, ma con più calma in estate, è meglio così. Poi l'inverno diciamo prendi più il ritmo un pochettino più veloce, no? Poi a me piace molto l'inverno a Sassari, mi piace come città. No, ti stavo dicendo che questi ultimi anni hanno preso piede questi studenti spagnoli, ma anche gente che viene qua a fare attività sportiva e cose, che è una cosa impressionante. Pure oggi ti ho portato la bombola a 4 grammi, adesso lo posso dire, ma che mi hai capito. Cazzo, più alti di me, Dani. Una zona, cazzo. Oh, ti hai fatto gli occhi, Gaies. Ah, ui, ma sa lì, sono andato qui a Roma, in Cile. C'era questa qui, c'aveva quel pantaloncino, proprio di quegli aderenti. Cazzo, entrata, e ci vediamo nei giampi, e sci piani da fuori, è tutto girato. Mamma mia! E me mi potevi chiamare, ero lì, sono lì. Con questo discorso minimo entra a pompugno, perché lui fa odore. Mamma mia! Cazzo, guarda, ce l'ho dovuto dire. Posso dire, guarda, tu sei una bella mucciaccia. Cazzo, ce l'ho dovuto dire. E cosa devo fare? Beh, almeno ti ha rallegrato la giornata. È successo, sì. Ma scusami, è successo oggi questa storia. Oh, quello lì l'altro giorno. Oggi qua, quando gliel'ho burrata quella là. Oh, sì, bravo, bravo. È un bravo mucciaccio. Grazie. Adesso tu sei molto simpatica, però mi ha fatto il bacio così. Dunque alla fine dovrebbe essere una nuova clientela, giusto? Da anni che li fornisco, ma ci sei piena di queste persone qua. Poi, e già sai quanto ne vengono dai paesi anche, turisti e cosa, casa quattro alla busca. È già bella presa, però già è vero, Quello scusa adesso che poi giustamente da un po' è iniziata la scuola, diciamo, sì, quelli che abitano già in casa in affitto, le studentesse, ce ne sono un bel po', Vabbè, qualche giorno potresti fare anche qualche sconto. Cappa, daglielo do io lo sconto. E già mi hai capito, no? Io quello stavo pensando. No, vabbè, dai. Ma sono già un po' di gente in gamba, se mi dico paga e dai, sono liberato di andare un muro. Ma ce n'è un genere, un sacco che sono in gamba. Ma cazzo, sembra che ci abbia il miele io. Cazzo, quando si tratta di spagnoli, cazzo, chiameranno anche gli altri, ma... Che, non lo so. Pare che guarda come si chiama caramita. Già è bella storia, Paul. Aspetta, telefonino un attimo. Devo lasciare un attimino, bomba, devo scendere da mamma che mi ha chiamato. Se ci sei, una decina di minuti sto arrivando. Capo, non c'è problema. E la fate in pressa. A dopo.